Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ci eravamo lasciate, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con turbulenze politiche la scorsa settimana, che erano culminate poi con il caso Piemonte, come se non fosse abbastanza, proprio l'ultimo giorno della settimana, e iniziamo con delle ipotesi di rimpasto. Quindi continuano queste turbulenze, questi sommovimenti, vedremo poi quali ministri potrebbero essere nel mirino dell'aggiustamento, diciamo, della squadra di governo. E poi, fra le altre cose, oggi Renzi ha incontrato il presidente della Repubblica Napolitano per parlare di legge elettorale. Guarda caso, proprio pochi istanti fa, è una pura coincidenza ovviamente, il Porcellum ha avuto la sua sentenza definitiva, nel senso che la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza che lo ha completamente condannato, nel senso azzerato, archiviato, messo da parte. Quindi adesso bisognerà capire quale sarà la nuova legge elettorale. Non ci sono problemi soltanto per la classe politica italiana, anche se siamo su questioni diverse. Avete sentito lo scandalo che riguarda Hollande, che avrebbe avuto, diciamo, un flirt, la sua compagna, questa giornalista, sarebbe ora in ospedale, qualcuno dice, sospetta che abbia tentato un gesto estremo. E intanto Sarkozy, l'ex presidente francese, non si fa sfuggire l'occasione di pungere Hollande e dice: è stata tradita da lui la promessa di essere un presidente esemplare, pensate un po'. Però intanto, prima di passare alle varie vicende e di raccontare i fatti anche attraverso gli ospiti, cominciamo a fare un riassunto della giornata. Il Porcellum, per l'appunto, notizia di pochi istanti fa, la Corte Costituzionale deposita la sentenza che ha azzerato la vecchia legge elettorale. Immigrazione, la base del Movimento 5 Stelle, nel referendum lanciato oggi da Grillo, vota contro il reato di clandestinità. Il governo si profila un rimpasto e Letta dice il 2014 l'anno decisivo per superare i nostri ritardi. Intanto oggi Renzi ha incontrato Napolitano. Marchionne alla guida di Fiat Chrysler almeno per 3 anni, sulla sede la decisione invece arriverà a fine gennaio. Francia, giallo su Valéry, la compagna di Hollande resta in ospedale, domani l'attesa conferenza stampa del presidente. Il cinema alla grande bellezza di Sorrentino, il Golden Globe. E per quanto riguarda il calcio, Allegri va via dal Milan, arriva Seedorf, e il pallone d'oro 2013 va a Cristiano Ronaldo. Allora, c'è la politica in primo piano, ma iniziamo invece dai palloni che hanno ovviamente una loro importanza oggi, non solo perché c'è il campionato di Serie A, non solo perché c'è il cambio di testimoni al Milan, ma c'è un pallone d'oro, Carlo Genta, l'uomo con il calciatore, diciamo, con le sopracciglia più a posto di tutto delle squadre mondiali. Non credo che sia per le sopracciglia più a posto di tutto il calcio mondiale. Hai ragione, Roberta, Cristiano Ronaldo. Ma d'altra parte, politica e calcio non sono molto distanti, E anche personaggi mediatici, da Hollande fino appunto al super bello Cristiano Ronaldo. Così è andata, era molto atteso questo pallone d'oro perché c'era questo ballottaggio con Messi che aveva vinto gli ultimi tre. Le lacrime di Cristiano Ronaldo, uomo di ferro, uomo che è il classico uomo che non deve chiedere mai, hanno bagnato quel palcoscenico, e dunque il pallone d'oro è suo in una giornata, come giustamente ricordavi, che ha avuto molti temi di calcio, perché non c'è solo Hollande, non c'è solo Cristiano Ronaldo, c'è anche Berlusconi che ha licenziato Seedorf. Ecco, però Carlo, al di là del fatto di avere appunto le sopracciglia più impeccabili di tutte le squadre mondiali, il cappello perfetto, non un pelo fuori posto, ma Ronaldo è anche un grande atleta, lo possiamo dire questo, Ronaldo, no? È un allora, possiamo dire che forse mai pallone d'oro fu più meritato, ovviamente sto esagerando, però questo ragazzo non ha vinto niente esattamente, non ha vinto la Champions League esattamente come Messi. Quello che l'ha vinta è Ribéry, che teoricamente, se consideriamo calcio, gioco di squadra eccetera, era quello che lo meritava più di tutti. Però non c'è dubbio sul fatto che nel 2013 Cristiano Ronaldo sia stato il giocatore più forte del mondo, lo dico i numeri, tutti i gol che ha segnato, è un giocatore mostruoso, è un giocatore straordinario, e io credo che sia la decisione più giusta quella uscita con grande enfasi da quella busta sul palcoscenico della FIFA. Dico anche, per fortuna, le celebrazioni FIFA sono finite, sorteggi mondiali, pallone d'oro, adesso ci dedichiamo al calcio giocato. Beh, tanto così per la cronaca, gioca l'Inter 0-0 dopo 4 minuti di gioco. Non c'è solo la crisi del Milan, ma anche quella dell'Inter in discussione in questi giorni, Roberta. Carlo, io intanto ti ringrazio e ci fidiamo del tuo giudizio quanto al grande Ronaldo. Grazie Carlo Genta. Ciao Roberta, ciao. Ciao a tutti. Carlo, ciao. Per il campionato invece ci spostiamo su Giovanni Capuano. Giovanni, quindi già ci anticipava un po' Carlo Genta. Eccomi. Il menù di stasera. Eccomi, buona serata. Sì, menù che chiude il girone d'andata perché mancavano due partite al termine della 19ª giornata. Una si è conclusa da pochi minuti e si è conclusa con la vittoria della Sampdoria sull'Udinese per 3-0. È stata una partita a senso unico, doppietta di Eder, un gol su rigore nel primo tempo, il raddoppio subito ad inizio ripresa e poi nel finale il 3-0 di testa di Capitan Gastaldello. Partita frizzante con tre espulsi, le squadre hanno finito la Sampdoria in 10 e l'Udinese in 9. C'è stata qualche protesta per la direzione di gara di Mazzoleni, tutto regolare insomma, considerato che siamo nel campionato italiano. L'Udinese quest'anno sta facendo fatica, è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Tre giorni fa l'Udinese ha giustiziato in Coppa Italia l'Inter, che se vogliamo, Milan a parte, è l'altra grande squadra che sta facendo fatica in questa parte del campionato. L'ha anticipato Carlo, a San Siro sta giocando, questa è l'ultima partita del girone d'andata, siamo al quinto minuto del primo tempo, siamo ancora sullo 0-0, San Siro mezzo vuoto, credo non soltanto per questioni climatiche, a Milano sta piovendo, fa freddo, ma c'è evidentemente anche un certo disamore nei confronti di una squadra che nelle ultime sei partite ha fatto sei punti, è precipitata al sesto posto, è lontanissima dalla vetta, dalla zona Champions, tanto che dall'Indonesia è dovuto intervenire il presidente Toyer per spiegare che questo è un anno di transizione. Tifosi dunque molto esigenti, grazie Giovanni Capuano. Grazie a te. Ciao Giovanni. E adesso torniamo invece alla politica. In primo piano c'è, come vi dicevo, l'ipotesi di rimpasto. E l'ultima, per così dire, sollecitazione viene dal caso De Girolamo. La ministra dell'Agricoltura parlerà nelle prossime ore. In imbarazzo per i sospetti favoritismi emersi con l'inchiesta sulla ASLA di Benevento, Nunzia De Girolamo rischia di essere il primo ministro a saltare in caso di rimpasto. A metterla nei guai sono alcune registrazioni fatte in modo abusivo a casa sua da uno degli indagati. La titolare dell'agricoltura, che non è coinvolta nelle indagini, parla di operazione costruita per colpire il governo, assicura di non aver commesso illeciti e fa sapere di essere pronta a riferire in aula. Il suo partito, il Nuovo Centrodestra, la difende in modo compatto. Anche il marito, il deputato democratico Francesco Boccia, sottolinea che nella vita chi sbaglia paga, ma è la magistratura a deciderlo. Io sono rigoroso con tutti, anche con chi mi è accanto, aggiunge Boccia, mentre col passare delle ore nel PD sono sempre di più quelli che chiedono alla De Girolamo di fare chiarezza su una vicenda definita imbarazzante. A restare all'attacco è anche il Movimento 5 Stelle, che per ora però non chiede le dimissioni del ministro, ma la invita a presentarsi quanto prima in Parlamento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto il presidente del Consiglio Letta dal Messico, dove si trova, da Città del Messico, ha detto di guardare con ottimismo al 2014. Il 2014 per noi è un anno fondamentale, è il primo anno che non si apre con l'emergenza finanziaria, è il primo anno nel quale l'emergenza finanziaria è meno forte ed è il primo anno nel quale si parla di opportunità dal punto di vista delle riforme e di opportunità dal punto di vista finalmente della crescita. Ecco perché quei ritardi del passato oggi dobbiamo e possiamo superarli. Nel frattempo il segretario del PD Matteo Renzi, oggi è stato a colloquio per un'ora dal presidente Napolitano, dall'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica si è appreso che c'è stato uno scambio di idee su prospettive, confronto, iter per la riforma della legge elettorale. Avete visto che è arrivata la deposizione, è stata depositata insomma la sentenza che ha archiviato il Porcellum. Poi per quanto riguarda un altro aspetto politico importante di oggi è questo referendum lanciato da Grillo attraverso il iscritti, insomma, tra i suoi iscritti sull'abolizione, la possibile abolizione del reato di immigrazione clandestina che si dovrebbe votare domani al Senato, e la base ha votato per l'abolizione proprio del reato di clandestinità. Su questo tema, se volete, potete scrivere i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, effettonotte_Roberta Giordano. Risolta intanto la questione degli scatti del pagamento di anzianità agli insegnanti, potrà essere assicurato a seguito delle decisioni che verranno assunte nel prossimo Consiglio dei Ministri per gli insegnanti che ne abbiano beneficiato nell'anno 2013. Questo lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. E dopo 26 mesi consecutivi di calo, la produzione industriale in Italia torna a crescere con un più 1,4% su base annua, corretto per gli effetti del calendario, che può essere il tentativo di rimbalzo atteso. La conferma arriva anche dal Centro Studi di Confindustria. La crisi intanto continua a preoccupare, lo dimostra l'episodio avvenuto oggi all'Aquila, che ha visto il presidente di Confcommercio del capoluogo barricarsi per protesta negli uffici di Banca Italia, minacciando di darsi fuoco. Poi, con l'intervento del prefetto, ha sospeso la sua protesta, ma poi sentiremo direttamente la sua voce, le sue ragioni, perché sarà ospite più tardi qui di Effetto Note. Parliamo anche di Fiat. La quotazione di Fiat Chrysler, la sede e la questione legale saranno discussi al Consiglio di Amministrazione del prossimo 29 gennaio, lo ha detto durante la conferenza stampa con il presidente John Elkann. A margine del Salone dell'Auto di Detroit, l'amministratore delegato di Fiat e Chrysler, Sergio Marchionne. L'IPO, ovvero l'offerta pubblica iniziale, l'arrivo in borsa, non sarà comunque nei primi sei mesi del 2014, ma potrebbe essere entro l'anno. E poi sotto i riflettori oggi c'è anche l'Italia, con l'assemblea ordinaria che ha riconfermato i vertici con Etihad. Ha detto l'amministratore delegato Gabriele Del Torchio: siamo ancora in fase esplorativa, ci scambiamo idee e progetti, ma se il buongiorno si vede dal mattino, io sono ottimista. Un CDA di transizione in attesa dell'arrivo di Etihad. L'assemblea di oggi riconferma Roberto Colaninno alla presidenza e Gabriele Del Torchio come amministratore delegato. Un consiglio di amministrazione più leggero, dopo l'aumento di capitale che ha registrato l'ingresso di Poste, Unicredit e Odissea alla società di Antonio Percassi, patron dell'Atalanta. E dire che Colaninno aveva annunciato il suo passo indietro. Ora però bisognerà trattare con gli arabi, e soprattutto le banche hanno chiesto che Colaninno restasse al suo posto, almeno fino a quando l'operazione non andrà in porto. Etihad potrebbe arrivare al 49% di Alitalia entro la primavera. Al momento però i vertici della compagnia degli Emirati fanno sapere di non aver ancora concluso l'analisi preliminare, che non hanno intenzione di prendere decisioni affrettate e comunque non muoveranno nulla entro gennaio. In ogni caso l'offerta, e questo si sa, sarebbe legata a condizioni: la ristrutturazione del debito, la chiusura dell'accordo sindacale sul taglio dei costi, il rinnovo del management e una serie di garanzie sugli aeroporti. Il piano industriale che pende su Alitalia prevede un taglio del costo del lavoro pari a 128 milioni con 1.900 esuberi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Due anni fa il naufragio della Costa Concordia. All'isola del Giglio si è tenuta oggi una cerimonia in memoria delle 32 vittime. A Grosseto, nell'aula che ospita la nuova udienza del processo a Francesco Schettino, c'è stato un minuto di silenzio e un sit-in promosso dagli avvocati di parte civile. Spostiamoci all'estero, parlavamo di Francia, dove un uomo è stato fermato con un chilo di esplosivo a Parigi, nel quartiere della Porte della Villette. Ma la notizia, che ha fatto oggi più clamore, arriva al termine di una giornata ancora dominata appunto dal caso Hollande. La Premier Dame resta in ospedale dopo la rivelazione della relazione del presidente con una giovane attrice. Trincerarsi dietro il rispetto della vita privata non è servito e non servirà a nulla. La vicenda della relazione segreta tra il presidente francese François Hollande e l'attrice Julie Gayet è oggettivamente una questione pubblica, perché ha un impatto sull'immagine del presidente in un momento delicatissimo, proprio alla vigilia della conferenza stampa semestrale in cui domani pomeriggio Hollande dovrà spiegare i contenuti della sua nuova politica economica, perché ci sono interrogativi sulla sua sicurezza e sui preoccupanti intrecci tra la signora che ha prestato l'appartamento degli incontri tra i due amanti e il grande banditismo corso, perché semplicemente i francesi si chiedono chi è il loro presidente, che passa il Natale con la compagna ufficiale, la Premier Dame Valérie Trivelère, che dopo le rivelazioni è stata ricoverata in ospedale per una crisi nervosa, e la notte prima di Capodanno con l'amichetta. Hollande è ovviamente libero di stare con chi gli pare, ma in maniera trasparente, senza menzogne e senza inganni. Altrimenti si installano i dubbi sulla trasparenza e quindi sulla credibilità anche della sua vita pubblica. Marco Mussanet, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Dalla Francia e Medio Oriente, militanti a Gaza hanno sparato due tiri di mortaio che hanno colpito un'area nei pressi del ranch dove l'ex primo ministro israeliano Ariel Sharon è stato sepolto oggi, lo ha indicato un portavoce dell'esercito dello Stato ebraico. E poi infine il cinema, perché sapete, ha ricevuto il Golden Globe La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Poi parleremo con un critico cinematografico più tardi di questo film per capire perché Molti è piaciuto, molti non è piaciuto per niente, parlo proprio di pubblico al di là dei critici. È piaciuto forse più all'estero, ma naturalmente anche in Italia. Ma se volete esprimere le vostre opinioni, vi direi soprattutto sulla questione del reato di clandestinità, il referendum lanciato oggi da Beppe Grillo, che è andato forse diversamente da quelle che erano le sue intenzioni. Adesso non faccio il processo alle sue intenzioni, per carità, poi ne faremo anche un'analisi politica. Però qual è la vostra opinione? Voi abolireste il reato di clandestinità per gli immigrati? C'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero 349 per gli sms, 349 238 6666. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, tra poco cominceremo un po' ad analizzare l'attuale situazione politica, soprattutto ora che si parla sempre più insistentemente di rimpasto. Nei giorni scorsi questa ipotesi era stata più volte smentita. Vedo anche adesso una dichiarazione di Renzi di poco fa che dice il PD non chiede il rimpasto ma è a disposizione di Letta. Però prima di questo, se aveste acceso in questo momento la radio, anche se vi prego di farlo almeno alle 21 per sentire Effetto Notte, vi ricordo quali sono stati i fatti principali di oggi. Porcellum, notizia proprio di questa sera: la Corte Costituzionale deposita la sentenza che ha azzerato la vecchia legge elettorale. Immigrazione, la base del Movimento 5 Stelle nel referendum lanciato da Grillo, vota contro il reato di clandestinità. Governo, si profila un rimpasto, Letta dice il 2014 l'anno decisivo per superare i nostri ritardi, e intanto oggi Renzi ha incontrato Napolitano. Marchionne alla guida di Fiat Chrysler almeno per i prossimi 3 anni, e sulla sede la decisione arriverà a fine gennaio. Francia, avete sentito il giallo su Valérie, la compagna di Hollande che resta in ospedale. Domani ci sarà l'attesa conferenza stampa del presidente. Per quanto riguarda il cinema, La grande bellezza di Sorrentino va il Golden Globe. E poi per il calcio, Allegri va via, arriva Seedorf al Milan, e il Pallone d'Oro 2013 va a Cristiano Ronaldo. Saluto Alberto Rioli. Ciao Alberto. Ah, buonasera a tutti. Vice direttore del Sole 24 Ore. E io vorrei parlare con te dell'ipotesi rimpasto, Alberto, anche se non vorrei, perché magari ci ascolta Renzi, non vorrei annoiarlo, perché lui appena l'ha saputo ha detto rimpasto, roba da Prima Repubblica, che noia, ha twittato. Vi prego, ha detto parliamo di cose concrete, quindi non so se è il caso di parlarne, che dici? In effetti... Chiediamo Renzi, scusa a Renzi se fossi Renzi in ascolto. Non ama le liturgie della vecchia Repubblica, diciamo così, queste estenuanti mediazioni nei partiti vecchio stampo. Ha le sue ragioni, vogliamo dirlo? Che abbia tutti i torti. Ecco, non ha tutti i torti. Comunque questo rimpasto sembra stato ulteriormente sollecitato, anche se leggevo poco fa, avrei sentito la dichiarazione di Renzi di pochi istanti fa, che ha detto io non ho chiesto il rimpasto, il PD non l'ha chiesto. Se il Premier ritiene nella sua autonomia di fare piccole o grandi modifiche, noi siamo a disposizione, ma il rimpasto non è oggetto di discussione del PD. Esattamente, sì, in questo c'è una sottile ambiguità tattica di Renzi, che ci tiene a lavorare da fuori perché riesce a fare meglio la guerriglia che fino adesso ha sempre fatto, anche in modo abbastanza evidente. Perché se sta dentro nel governo diventa un po' più difficile fare di lotta e di governo, come si usa dire, no? Se sta dentro gli sfuma lo schema tattico di poter suggerire delle cose da fuori, diciamo, perché indubbiamente è più facile suggerire grandi riforme senza poi averne la responsabilità diretta, diciamo così. Anche se Renzi poi ha detto oggi in riunione di segreteria ai suoi che il PD non ha più l'alibi perché il partito è lo stesso che sta al governo e quindi dice le riforme vanno fatte, le dobbiamo fare noi. A proposito di riforme, hai visto notizia di poco fa con la Corte Costituzionale, che ha depositato la sentenza che ha azzerato il Porcellum. Si aspettava, no? Le motivazioni. Sì, esatto, le motivazioni della sentenza con la quale ha sconvolto, diciamo così, calendario della politica, costringendo i partiti a ragionare di riforma elettorale, sembra propendere verso il cosiddetto modello elettorale spagnolo. Ma te piace? Ma è un sistema proporzionale, diciamo così, porterebbe, questo sì, se preso così chiave in mano, porterebbe l'Italia, diciamo così, alla ingovernabilità, Repubblica perlomeno, non più allo schema bipolare, perché è un sistema proporzionale con liste bloccate con lo sbarramento al 5%, quindi per carità, l'idea dello sbarramento è fondamentale, probabilmente sarebbe meglio adattarlo non con liste bloccate, perché altrimenti alcune delle cose che sollecitava la Corte Costituzionale non sarebbero recepite, perché liste bloccate è uguale al porcellum, diciamo, che decidono le segreterie dei partiti e il Parlamento dei nominati. Questo sicuramente non va bene rispetto alle cose che la Corte ha chiesto ai politici italiani. E questo è uno dei due motivi per cui è stato bocciato, no? Il premio di maggioranza eccessivo e proprio le liste bloccate che impediscono agli elettori di votare direttamente i loro rappresentanti. Esattamente, sono questi i due rilievi maggiori che la Corte ha fatto al sistema elettorale italiano. Senti, Alberto Rioli, vedevo tra i possibili papabili, diciamo così, per il rimpasto, cioè i ministri, usiamo un termine, ce l'ha insegnato Renzi, poi magari lo rottameremo a sua volta questo termine, i ministri da rottamare eventualmente sarebbero la De Girolamo, la ministra dell'agricoltura, che sappiamo essere un po' al centro delle polemiche degli ultimi giorni perché è coinvolta nell'inchiesta sugli appalti nell'ASL di Benevento, insomma, secondo alcune intercettazioni avrebbe avuto ingerenze nella gestione della sanità nella sua provincia, anche se per il momento non è indagata, ecco, specifichiamo. Quindi una potrebbe essere lei, poi la ministra Cancellieri, che sappiamo tutta la questione Ligresti, eccetera. Anche il ministro Giovannini del Lavoro sembra nel mirino, perché secondo alcuni è stato quello che ha dato i primi giudizi sul Jobs Act di Renzi e lo ha un po' criticato, quindi sarebbe nella lista nera di Renzi. Ora non so se sono supposizioni fantapolitiche o cosa. Saccomanni, che è abbastanza nell'occhio del ciclone da diverso tempo, poi con i 150 euro da levare agli insegnanti ancora esplosa la questione, e la ministra Kyenge per l'immigrazione, per l'integrazione, che forse è quella ancora più al centro delle polemiche. Non so se hai sentito che tra i possibili invece da introdurre come ministri ci sarebbe Monti all'economia al posto di Saccomanni, ma dopo il governo Monti, tutte le critiche, cioè, ti sembra il caso? Che... Ma guarda, allora dividiamo in due. Nella prima parte scatta un totto ministri al contrario. Ed è un esercizio giornalistico che non sempre poi ritrova corrispondenze effettive nella realtà dei fatti. È chiaro che chiunque si eserciti a questo gioco con un minimo di razionalità e con il criterio della verosimiglianza può trovare, può comporre e ricomporre il puzzle del governo a suo piacimento. Infatti è molto rischioso il rimpasto, perché sai quando, come cominci e non sai mai come finisci. Questo Letta lo sa bene. Io credo sia molto titubante rispetto all'idea del rimpasto, anche perché in realtà era partita con l'idea di giubilare Saccomanni, che era il ministro su cui c'erano le maggiori pressioni, ma Saccomanni mi sembra sia stato ulteriormente legittimato anche dal Quirinale ed è molto accreditato nelle cancellerie estere, molto ben visto in Europa, lo viene considerato un garante delle politiche economiche, quindi io credo che su Saccomanni non si possa fare nulla, quindi probabilmente verrebbe meno la maggior causa della richiesta di rimpasto, a dire la verità. E qui arriviamo al secondo, alla seconda domanda che facevi tu su Monti. Effettivamente Monti nell'ultima fase si è un po' rifatto vedere, diciamo così, ha rilasciato interviste, ha scritto note, ha commentato gli spread, insomma ha rivendicato anche a sé parte del merito di questa fase di normalizzazione, anche se non è del tutto diciamo così accreditata poi dagli osservatori anche internazionali che analizzano le dinamiche degli spread e degli andamenti dei mercati in questa fase. Ci sono variabili molto più grandi di noi in gioco in questo momento: il grande trasferimento di liquidità dai paesi emergenti ai paesi, diciamo così, più standard, come sono quelli della vecchia Europa, e quant'altro, gli annunci della Fed a nuova conduzione Yellen sul tapering, cioè sull'abbandono appunto del graduale, molto graduale, dell'inondazione di liquidità sui mercati e quant'altro. Quindi le variabili in gioco sono molto alte, non è possibile per una singola persona poter ascriversi meriti più di tanto, ecco, quindi. Possiamo dire, per onestà, poi mi aiuti tu Alberto Rioli che ne sa infinitamente di più, però è vero che, come si diceva, Monti, il governo Monti hanno evitato che l'Italia proprio crollasse nel baratro, però qualche problemino l'hanno creato, credo. Per esempio, il pasticcio più grosso per ora di questo governo Letta è quello dell'IMU, TASI e quel che diventerà. Forse per quanto riguarda il governo Monti gli esodati possono essere, no? Beh, indubbiamente quello è rimasto un vulnus molto pesante che ha oscurato anche i meriti che pur ci sono stati della riforma Fornero in campo previdenziale. Non dimentichiamolo che in un orizzonte medio, diciamo così, la riforma Fornero consentirà un risparmio di 80 miliardi di euro nel medio-lungo periodo alle casse dello Stato, e questo era una cosa decisiva per rimettere in ordine i conti insieme a quello del recupero della fiducia internazionale. Però quello degli esodati è davvero una cosa scandalosa. Poi non bisogna anche immaginare che sia aperta una fase in cui all'interno del titolo esodati, poi si incuneano anche categorie che magari non sono propriamente esodati, non sono propriamente disperate, ma stanno tentando di lucrare una rendita di posizione, quindi è molto difficile discernere poi quanti effettivamente sono. Non a caso viene fatto un aggiornamento periodico del numero degli esodati. Invece certo la parte più tremenda per il governo Letta è stata questa caos legato alla tassazione sulla casa, che è frutto poi dell'aver accettato una parte dei temi di propaganda di una componente del governo, naturalmente il centrodestra, senza essere pronto a gestire con razionalità le coperture e a modificare diciamo così rapidamente, creare rapidamente una riforma di quel tipo di tassazione. Quindi siamo passati da varie fasi, varie bozze preparatorie, vari provvedimenti che ha messo in campo il governo, che sono stati regolarmente stravolti poi nella navigazione parlamentare, che ha dato una grande sensazione di confusione e di caos ai contribuenti e ai professionisti che devono assistere i contribuenti in questa fase. Sono veramente con le mani nei capelli, direi proprio di sì, per chi ce l'ha i capelli e anche per chi non ce l'ha. Senti Alberto Rioli, per proprio in chiusura, come ultima delle varie notizie oggi in primo piano di politica, poi ne parleremo direttamente con un esponente del Movimento 5 Stelle dopo la pausa, ma tu che ne pensi di questo referendum lanciato da Grillo sul reato di immigrazione clandestina? Ma questo è un modo che i 5 Stelle hanno dall'inizio di accarezzare, diciamo così, il pelo di certe istanze un pochettino xenofobe, diciamo la verità, perché fin dall'inizio hanno raccolto anche parte delle pulsioni che provenivano da ambienti che erano sempre caratterizzati come di estrema destra o quant'altro. Invece su quel tipo di argomentazioni sono confluiti poi invece sotto, diciamo così, l'agenda di Grillo, e questo sondaggio va in quella direzione, anche perché poi l'esito, quando vai a fare sondaggi tipo telematico di questo genere, secondo me l'esito è anche abbastanza scontato. E quindi non lo so, al di là del tema in sé, che è molto sensibile, ha bisogno di mediazioni sociali che vanno ben oltre quelle dei social network, secondo me, di un click sì o no, è pericoloso usare il mezzo subillare, solleticare. Ho capito. Comunque poi sentiremo anche che cosa ne dirà Vito Crimi, che ci sarà tra poco. Intanto io ti ringrazio, Alberto Rioli. Grazie e buon lavoro. Buona serata. Ciao Alberto. Ciao. Allora, ci prendiamo questa pausa e voi potete continuare proprio su questo argomento che citavo in ultima analisi con Alberto Rioli. Potete esprimere le vostre opinioni con la pagina Facebook di Effetto Note, la riconoscete perché è Effetto Note trattino Roberta Giordano. Vedo anche dei messaggi al 349-238-6666. Non abolire il reato di clandestinità, anzi raddoppiare la legge e mettere le torrette di controllo come in Spagna, scrive Amalia. E poi un altro: sono contrario, dice si firma Garavelli col cognome, sono contrario all'abolizione del reato di clandestinità. Davide da Pisa: reato di clandestinità inutile, folle, barbarie, leghista. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, e vedo che Pierluigi sulla pagina Facebook di Effetto Notte scrive: il governo cerca un rimpasto, l'italiano un pasto, e effettivamente diciamo c'è una certa fondatezza in questo adagio che ha forgiato Pierluigi. Poi ci sono alcuni ascoltatori, c'è Maria, poi c'è Massimo, che sono un po' sorpresi del fatto di aver aperto questa puntata di questa sera con il calcio. Ogni tanto scompaginiamo, c'era il pallone d'oro, l'assegnazione del pallone d'oro a molti interessa, io posso non essere una patita di calcio, però ogni tanto ci sta anche a cambiare un po' le carte in tavola. Poi le altre notizie naturalmente ci sono state tutte, no? Allora io direi di ripartire allora dalle notizie principali. Con il Porcellum è la Corte Costituzionale che ha depositato questa sera la sentenza che ha azzerato la vecchia legge elettorale, poi vedremo se si capisce qualcosa dal dispositivo. L'immigrazione, la base del Movimento 5 Stelle nel referendum lanciato da Grillo, vota contro il reato di clandestinità. Governo si profila un rimpasto, Letta dice il 2014 sarà l'anno decisivo per superare i nostri ritardi. Oggi intanto c'è stato un incontro tra Napolitano e Renzi. Marchionne sarà la guida di Fiat Chrysler almeno per i prossimi 3 anni. Sulla sede dell'azienda la decisione arriverà a fine gennaio. Fra Francia, giallo su Valéry, la compagna di Hollande resta in ospedale. Domani ci sarà l'attesa conferenza stampa del presidente Hollande, che sarebbe stato pizzicato appunto con questa sua storia fedifraga. Diciamo così, cinema, La grande bellezza di Sorrentino va il Golden Globe e invece il Pallone d'Oro va a Cristiano Ronaldo. Prima di parlare di altro, direi anche di dedicare uno spazio, come sempre queste sere, all'Europa, perché c'è poca informazione rispetto anche alle elezioni. Lo sapete che ci saranno il 25 maggio le europee. E quanto gli italiani vengono informati? Quante campagne ci sono efficaci di informazioni per far conoscere le istituzioni europee? Le elezioni europee appunto si avvicinano, mentre sembra crescere la distanza tra i cittadini e le istituzioni europee. Cosa stanno facendo allora queste istituzioni per informare su questo appuntamento e per rendere gli elettori più consapevoli dell'importanza del voto? Europa 24 notte. Verso le europee. Lei sa che si vota a maggio per l'Europa? No, non so nulla. Lei sa che si vota per l'Europa a maggio? No, sinceramente no. Sì, so che si vota. L'ho sentito dire, però non mi sono molto informata. So che si è presentato Berlusconi, però non so neanche che cosa si basa. Cambierà qualcosa il voto, secondo lei? No, onestamente no, non penso proprio. In negativo, in positivo mai. Talmente sfiducia che è una fatica pure andare a votare per me. La gente è sfiducia, come dice il collega, è pieno e ovviamente andrà a votare, saremo sempre di meno. Qui saranno a casa tutti, europee, tutti. Lei ci andrà a votare? Tutti. No, sono 2 o 3 anni in ciato, non ci vado più. Nemmeno per le europee, ma per le europee serve a qualcosa secondo lei votare? No, la gente è sempre la stessa, ognuno guarda l'orticello lungo. Siamo a Roma, mancano poco più di 4 mesi alle elezioni europee. Questo era un piccolo campione, ma è innegabile che fiducia e coinvolgimento degli italiani nei confronti dell'Europa siano ai minimi storici. Molti ignorano l'appuntamento, tanti pensano che questo voto non cambierà le cose, se non in peggio. Ma allora cosa stanno facendo le istituzioni europee per suscitare un dibattito serio sull'Europa e per impedire che l'ondata di euroscetticismo le travolga? Roberta Angelilli è vicepresidente del Parlamento europeo, istituzione che sta promuovendo la campagna Agire, Reagire, Decidere per incoraggiare la partecipazione alle elezioni europee. Il messaggio è che gli elettori con questo voto possono determinare il futuro assetto dell'Europa. A Roma, prossimo appuntamento il 23 gennaio. Allo studio 10 di Cinecittà ci sarà anche lei. Effettivamente bisogna aiutare i cittadini a sentirsi cittadini europei, a partecipare appunto alle decisioni, ma soprattutto a cogliere le opportunità che vengono dall'Europa. E gli italiani devono essere in prima linea, proprio perché sono un popolo che conta in Europa, un paese che conta in Europa. Siamo la terza economia europea, siamo un paese fondatore, quindi abbiamo tutto il diritto di cogliere concretamente le opportunità che vengono dall'Unione Europea. Alessandro Giordani è il capo settore comunicazione e reti della rappresentanza, responsabile delle reti Europe Direct, reti che promuovono una serie di appuntamenti pubblici in tutta Italia. Cittadini, associazioni, rappresentanti della società civile, autorità locali discutono d'Europa. Una promozione quasi porta a porta, se vogliamo vecchia maniera. Il prossimo appuntamento mercoledì al Teatro Argentina di Roma. Noi partiamo da un'Italia che si è molto raffreddata dal punto di vista della sua adesione all'Unione Europea e al progetto europeo rispetto ai tempi precedenti. Noi abbiamo veleggiato per decenni su un tasso di europeismo superiore a quello di qualsiasi altro paese. Ovviamente l'Italia non è diventata euroscettica nel senso britannico del termine, ma si è molto raffreddata. Noi diciamo si è disincantata, quindi il punto di partenza è difficile ovviamente. Allora noi abbiamo cominciato a creare un discorso, un confronto pubblico attraverso proprio un dialogo anche con i cittadini sul perché e il per come le loro aspettative sono state disattese. Quindi noi con l'iniziativa ad esempio di mercoledì al Teatro Argentina intendiamo istigare, fomentare, suscitare un dibattito sul futuro dell'Unione, sul che tipo di Europa vogliamo. Se il colore delle politiche europee che vengono da Bruxelles non mi piace, ho uno strumento per cambiarlo e quello è il voto per le elezioni europee. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Eccoci di nuovo e stavo guardando mentre sentivo appunto dell'informazione che non hanno spesso gli europei, gli italiani in particolare, che è stato depositato il dispositivo della Corte Costituzionale che ha azzerato il Porcellum e dice però che le Camere sono organi costituzionalmente necessari e indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Questo per rispondere anche a chi dice: vabbè, ma se allora questo sistema elettorale è incostituzionale, vengono esautorate le istituzioni, le Camere devono sciogliersi, il Parlamento deve andare a casa, eccetera, eccetera. Non è così, dice la Corte Costituzionale. La legge elettorale non fa cessare l'attività delle Camere, e poi dice: gli effetti sono solo dalle nuove elezioni. Quindi ha precisato questo la Corte Costituzionale. Continuiamo a parlare di politica. Con Vito Crimi, senatore, buonasera. Buonasera, buonasera. Vito Crimi, adesso va bene senatore o dobbiamo dire sempre cittadino? O senatore, vi siete abituati un po'? Sarebbe preferibile cittadino, Vito Crimi, sono i Crimi, sono sempre quello. Va bene, sempre Vito Crimi. Senatore del Movimento 5 Stelle, naturalmente uno dei personaggi più noti, degli esponenti più noti del Movimento 5 Stelle, oggi c'è stato il referendum, come citavo dai titoli, lanciato sul blog da Grillo, sul suo blog, per chiedere alla base, agli iscritti al Movimento 5 Stelle, se erano d'accordo, in attesa del voto di domani, no, che ci dovrebbe essere al Senato, certo, per l'abolizione del reato di clandestinità o meno. E il risultato è che hanno votato il movimento, gli iscritti al movimento hanno votato per l'abolizione del reato di clandestinità, e lei anche, no, mi pare, Vito Crimi, come sì, mai? Sì, io l'ho dichiarato stamattina. Guardi, allora, innanzitutto diciamo che è una cosa che è rivoluzionaria, è la prima volta comunque, e nessuno lo può negare, che per un voto di un emendamento, di una iniziativa legislativa o qualcosa che si deve fare al Senato o alla Camera, un partito interpella in maniera diretta i propri iscritti. E questa è una cosa già di per sé rivoluzionaria, è un tassello in più che stiamo mettendo. Abbiamo cominciato appunto con questo, che era un tema anche abbastanza particolare, per il quale non avevamo, diciamo, espresso delle posizioni in campagna elettorale, che quindi necessitava di una consultazione. Ce ne saranno altre, ovviamente diventerà sempre più costante questo interpello, diciamo, dei cittadini. In merito nello specifico del reato, il reato di clandestinità è una vera aberrazione, il reato di clandestinità, perché non va comunque, l'abolizione del reato non va a togliere lo status di clandestino. Chi è clandestino è clandestino e come tale deve essere espulso se non regolarizza la sua posizione. Il reato però comporta un processo, quindi le forze di polizia, forze giudiziarie, un processo che non porterà a niente se non a una sanzione che magari non potrà essere pagata, perché immaginate come possa pagare una sanzione, un'ammenda un clandestino. Quindi di fatto era solo un appesantimento burocratico voluto per dare così questo segnale, ma inutile. Ecco perché abbiamo, diciamo, la maggior parte di noi era d'accordo su questa cosa, che non fa venir meno, ripeto, il concetto di status di clandestino, che ovviamente va prevenuto il più possibile. Crimi, tra l'altro adesso vedevo gli aventi diritto al voto online sarebbero 80.383, lei ha preso freddo, Crimi, mi sembra, sì. E poi hanno votato contro, anzi per l'abolizione appunto del reato di clandestinità, 15.839 votanti su 24.932, ma siamo sicuri di questi numeri? Sì, sono 24.000 i votanti rispetto agli 80.000 e 15.000 hanno votato a favore dell'abolizione del reato di clandestinità. 24.000 su 80.000, se considerate il livello di partecipazione solitamente che c'è nell'ambito degli iscritti, della base di un partito, di un movimento che sia, è comunque altissimo in questo senso, nel poter interpellarli e avere subito una risposta in tempo reale. È chiaro che il tempo è stato ovviamente limitato a una giornata, anche perché andavamo al voto domani, quindi non è che potevamo permetterci di tenere aperta una consultazione per troppo tempo, e tra l'altro ci sono anche dei limiti legati alla presenza effettiva di protezione di sicurezza e di tecnici sul sistema, perché anche in questa occasione, come tutte le precedenti, siamo stati ovviamente vittima di attacchi di hacker che hanno provato in tutti i modi a violare i nostri sistemi. Man mano che la cosa diventerà sempre più costante, diventerà anche sempre più... Dice che riuscirete a perfezionare meno, questo sistema. Ma no, ma anche più irrilevante, diciamo, come luogo da violare, in quanto diventerà nel tempo sempre più costante l'utilizzo di questo sistema. Crimi, ma mi dica una cosa, mi sa che il suo voto è quello della maggioranza degli aventi diritto, diciamo, di quelli che hanno votato, quelli che hanno votato per l'abolizione del reato di clandestinità, sono andati un po' contro la convinzione di fondo probabilmente di Grillo, perché Grillo già a ottobre, se lei ricorda, lo ricorderà, sì, senz'altro, certo, no? Quando due senatori del Movimento 5 Stelle proposero un emendamento proprio per l'abolizione del reato di clandestinità, lui disse lo hanno fatto per un parere personale, se durante, ha detto Grillo, le elezioni politiche avessimo proposto l'abolizione del reato di clandestinità, presente in molti paesi, dice, più civili del nostro, come la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, il Movimento 5 Stelle avrebbe ottenuto percentuali da prefisso telefonico. Quindi lui insiste un po' su questo aspetto. Guardi, è stato un po' spiazzato forse Grillo da questo risultato? No, è contentissimo assolutamente del risultato, perché comunque quando c'è una partecipazione, c'è una scelta democratica, non si può che essere contenti del risultato a prescindere della propria opinione personale. Parliamo del reato di clandestinità, nel senso di per come è stato sempre presentata questa diciamo questa idea del reato di clandestinità. Nel momento in cui si abolisce il reato di clandestinità, cosa succede? Ah, arrivano da tutto il mondo. No, il clandestino rimane sempre clandestino, non è perseguito dalla legge, che comunque non porterebbe a nulla. Quindi, questa è la differenza. Diciamo che c'è stato probabilmente in quel momento una mancanza di, diciamo, di comunicazione, nel senso di spiegazione precisa di quello che stavamo andando a fare. Abbiamo pochi secondi, Crimi, le chiedo solo questo: il parere di chi ha votato online è vincolante per i senatori domani, giusto? Quindi voi prendete quella linea di votare per l'abolizione del reato di clandestinità. Ecco, questo volevo sapere. Certo. Vito Crimi, io la ringrazio e la saluto e le auguro Grazie buon lavoro per domani. Buona Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E adesso parliamo anche di cinema, visto che c'è un grande riconoscimento, è arrivato a un film italiano, La grande bellezza di Paolo Sorrentino, che poi voi lo sapete, è l'anticipazione per gli Oscar, quindi potrebbe essere un antipasto. È così, Gianni Canova? Sì. Caro Gianni, docente di storia del cinema all'Università Yulm di Milano, conduttore su Sky di Cinemaniaco. E Canova è un vero maniaco, perché mi sembra che tu quante volte hai visto questo film, La grande bellezza? 7 se non ricordo male, ma è una forma di innamoramento, e come sanno tutti coloro, cioè tutti coloro che ci ascoltano che sono stati innamorati, quando sei innamorato non ti basta mai. Senti, quindi... però adesso, hai scoperto sempre qualcosa di nuovo 7 volte o era sempre la stessa immagine? Assolutamente sì, assolutamente sì, e ogni volta che ogni revisione è una riemozione, forse mi hanno emozionato cose diverse rispetto alle visioni precedenti. È un film talmente ricco, complesso, pluristratificato. Credo che, insomma, se uno mi dice domani andiamo al cinema, se non c'è nient'altro di meglio che mi stuzzica, rivedo. Tu vai a rivedere, no? Insomma, questa è proprio maniacalità. Senti, Gianni Canova, ma... No, amore, dai, maniacalità. Amore, chiama amore, giusto, nulla di patologico, è chiaro, è amore quando c'è amore. Ma di una cosa, per chi l'avesse visto e anche per chi non l'avesse visto, tu mi dai un'istantanea della trama e poi mi dici quali sono i motivi che ti hanno spinto a vederlo al di là dell'innamoramento. È vero che quando si ama qualcosa, qualcuno non è si riesce a... chiedersi perché, ecco. Perché si comincia a chiederselo troppo, poi il rischio è che l'amore svanisca, ma insomma ci proviamo. Comunque ci sono delle evocazioni felliniane, no, in questo film? Sì, anzi, per certi versi il film è una riattualizzazione della Dolce Vita. Il protagonista principale, Jeff Gambardella, Tony Servillo, ha molte cose analoghe con il Marcello della Dolce Vita. Entrambi sono giornalisti, vagolano, girano nel mondo delle sterrazze, dei salotti romani, con una struttura rapsodica, non c'è vero e proprio sviluppo narrativo, e c'è soprattutto un gioco di coppie oppositive che strutturano tanto La grande bellezza quanto La dolce vita: vitalismo, indolenza, frenesia, staticità, sacro e profano, le coppie che fanno attrito e che determinano poi il tono emotivo del film. Sono due film entrambi, come dire, basati sul disgusto, perché noi pensiamo oggi alla Dolce Vita come un film che celebrava il Made in Italy. Menzogna, La Dolce Vita era paragonata da Fellini al primo cantico della commedia di Dante, all'inferno, e Fellini diceva è un viaggio nel disgusto, nell'amarezza, nel cinismo, nel disincanto. La grande bellezza è un po' la stessa cosa, è un viaggio a scoprire dentro la Roma di oggi incredibili, straordinari sprazzi di bellezza immersi dentro lo squallore quotidiano dell'uomo miserabile. Questo era la dolce vita e questa è anche la grande bellezza. Paolo Sorrentino. Senti, io voglio immaginare che, visto che l'hai foraggiato così tanto il suo film e ne hai parlato con tanta passione e tanto amore, ti avrà almeno invitato a cena Sorrentino, no? Gianni Canova? No, c'è un rapporto di cordiale amicizia, credo di essere stato uno dei primi a vederlo, questo sì, appena uscito dalla Moviola, con Sorrentino in sala, e mi ricordo la prima visione, grande emozione. E appena uscito gli dissi subito: questo è un film che può vincere l'Oscar, cosa di cui ora sono assolutamente convinto. Accetto scommesse da chiunque, questa volta la grande bellezza vince anche l'Oscar. Che cosa ti giochi? Che cosa ti giochi, Gianni Canova? Però qui finora ho scommesso con amici vari, credo di essere più o meno a 2.200 euro di scommessa. Vorrei arrivare a 3.000 e vincermi quella notte. Quindi se c'è qualcuno che mi scriva, accetto. Ma faccio un mestiere bellissimo, io insegno all'università, ho la fortuna di avere ragazzi che sono in giro per il mondo, in Erasmus, mi scrivono da Londra, da Los Angeles, dall'America. Delle reazioni entusiaste che hanno gli spettatori stranieri quando vedono la grande bellezza. Poi il film ha anche quel tot di ruffianeria che deve avere un film italiano per vincere l'Oscar, ce l'aveva Nuovo Cinema Paradiso, ce l'aveva Mediterraneo di Salvatore, c'è un lavoro anche sugli stereotipi, per carità. La grande bellezza ce l'ha, se non altro per il modo in cui racconta questa Roma tutta giocata sul rapporto fra i corpi di carne e i corpi di pietra, i corpi dei personaggi e le statue, che sono poi, come dire, una delle presenze più ricorrenti, più affascinanti, allo stesso tempo inquietanti della città. Questa Roma indolente, cinica, disincantata, ma anche consapevole dell'irrilevanza, intrisa del sentimento della vanità del tutto. Ecco, sono cose che credo possano colpire molto anche l'immaginario degli stranieri. Infatti, ma mi sembra, adesso non facendo un bilancio così preciso, però sia molto piaciuto agli stranieri, tra gli italiani ha diviso molto questo film, perché secondo te, Gianni? Ma sai, gli italiani sono autolesionisti, la dolce vita fu stroncata, io credo che questo film avrà un andamento, io ricordo sempre, la dolce vita fu stroncato unanimemente da tutti i giornali italiani, di destra e di sinistra, laici e cattolici, salvo poi gli stessi giornali che 6 mesi prima avevano sputato sul film di Fellini, titolare "Il capolavoro di Fellini trionfa sulla Croisette" quando fu presentato a Cannes, e poi trionfa agli Oscar quando andò alla notte americana. Agli italiani vogliono un film così, che è basato su un mix di attrazione e raccapriccio, che scivola sul registro del grottesco, al nostro tempo del sentimentale, che ti dice di fatto che la vita è lo squallore dell'uomo miserabile e non dà appigli, non dà soluzioni, ti sbatte in faccia, insomma, la miserabilità dell'esistenza, salvo dirti che poi ci salviamo tutti perché per fortuna quest'uomo miserabile è anche in grado di produrre qua e là degli spazi di bellezza incredibile. Ecco, questo non è un messaggio consolatorio, non è un messaggio che gli italiani vorrebbero, forse proprio anche perché non è neanche un messaggio ideologicamente, cioè non è di destra, di sinistra, no, fa a pezzi quelle vecchie categorie con cui, ahimè, una parte degli italiani ancora pretende di perimetrare il mondo. Non è di destra, non è di sinistra, non è laico, non è cattolico. Ai laici non piace perché c'è la suora finale, ai cattolici non piace perché, ma come, arriva quella suora dopo che c'è un inizio di un quarto d'ora a far l'amore comincia tu, con quell'inizio straordinariamente fisico, incredibilmente fisico, che coinvolge il corpo prima del pensiero, che arriva al pensiero. Sento tutto il tuo amore, Gianni, sei proprio innamorato. Io so che se prende l'Oscar tu lo vai a vedere altre 11 volte, comunque poi ci farai sapere allora, va bene? Va bene. Grazie, va bene. Gianni Canova. Grazie a tutti. Ciao, buona visione. Se lo rivedi. Adesso c'è Giovanni Capuano di nuovo sulla Serie A. Giovanni, che aggiornamenti ci sono? C'era l'Inter in campo, diciamo, come squadra? No? Sì, c'era l'Inter in campo, siamo nell'intervallo. A San Siro non prende l'Oscar questa partita, è stata divertente soltanto nei primi 20 minuti. Non la rivedresti altre 7 volte, no? No, anzi, c'è ancora il secondo tempo da vedere, quindi la serata sarà lunga. Dicevo, 1-1 risultato, era passato in vantaggio, un po' a sorpresa il Chievo per primo, all'ottavo minuto con Paloschi sull'ennesima dormita di tutta la difesa dell'Inter, che poi però ha pareggiato in fretta al 12° con Nagatomo, e per dare motivo di discussione domani nei bar sport, già questa sera per le moviole, due minuti più tardi al quarto d'ora si è visto annullare un gol ancora Nagatomo per fuorigioco che non c'era, e quindi si allunga la lista, il dossier degli errori arbitrali che credo Mazzari certamente citerà a fine partita che è stata carina per 20 minuti. L'Inter ha fatto possesso, ha avuto anche un'altra occasione con Palacio, poi piano piano i ritmi si sono abbassati, nel finale di questo primo tempo è stato il Chievo ad andare vicino al 2-1 con un contropiede di Terò, poi tutti sotto la doccia per questo riposo. A San Siro, lo ripetiamo, piove, il terreno sta tenendo bene ma si sta anche allentando con il passare dei minuti. Inevitabilmente, questo è un risultato che all'Inter non va bene. Inter che così resterebbe sesta, quota 32 dopo 19 partite, ha fatto 6 punti nelle ultime 6 giornate, questo sarebbe il settimo nelle ultime 7, certamente non allontanerebbe dalla squadra la crisi. Vediamo come finisce. Grazie Giovanni Capuano, noi ci risentiamo tra poco.